Poi la frutta, abbiamo anche messo in carpaccio la frutta. Io leggo tuttora in un ristorante in cui vado spesso a Roma, le pere in carpaccio, ma fettine di arancio, di finocchio, il parmigiano in carpaccio, parmigiano DOC ovviamente con l'aceto balsamico sempre DOC. Poi abbiamo tolto le salse, a un certo punto ci hanno fatto schifo le salse, poi le abbiamo rimesse, abbiamo messo l'anduia nel ketchup perché il ketchup comunica un senso di fast food e una delle interdizioni invalicabili degli Aristodem è proprio il fast food. Lo slow food è la dimensione migliore per l'Aristodem perché deve dedicare tempo al cibo, non deve privilegiare la quantità ma la qualità. Per lo stesso motivo odia l'all you can eat, sono quelle formule per cui tu paghi, non so, 20 euro e mangi tutto quello che vuoi fino a scoppiare. Non ha veramente niente di aristodemico, è proprio il popolare più basso, e essendo loro ovviamente degli aristocratici lo detestano, li sprezzano. Castoro Visone, il conte dell'acqua, salmone, caviale, champagne, la grande soubrette, Brigitte Lacagne, coperta di cincillà, la zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il freccetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso t'infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il freccetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso t'infanga. Inoltre lancia il tiro britannico che combatte l'assecamento sui massaggi sulla visione del congestionario. Altro che basta per ottenere un onoro anche in sirena naturalmente rosso. All'inizio dell'anno dominerà l'influsso radicante di Marte, situazioni più tese a causa della produzione di aria a fiori diversi, ma intonati in colore. Che combatte l'assecamento sui massaggi sulla visione del congestionario. All'inizio dell'anno dominerà una pasta sablé omogenea, lasciala riposare in luogo fresco finché si rassodi. E inoltre la cerchietta. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Allora, alcune scelte culinarie di tendenza negli anni Ottanta oggi sono improponibili, le pennette alla vodka, il risotto alla fragola, sono stati quello un po' che erano le gelatine negli anni Sessanta. Il decennio degli anni Ottanta è stato quello della panna, cioè la panna la mettevamo dappertutto, persino nei cocktail, si beveva, si mangiava in tutte le salse, salato, dolce, e sono venuti dopo gli anni di piombo, non a caso, cioè la panna era la metonimia di un desiderio di edonismo, di rinascita, di morbidezza rassicurante. In più appunto lo yuppie andava via di casa, andava al nord, appunto diventava yuppie, quando ritornava a casa doveva mangiare il timballo della mamma, c'era veramente un'estetica quasi antropologica di questo. Oggi non esiste un equivalente di quello che sono state le pennette alla vodka negli anni Ottanta, esiste un'etica della tipicità, una valorizzazione della località quasi ossessiva, per cui c'è la cinta senese, il pistacchio di Bronte, il culatello di Zibello, il vino in purezza, ecco, c'è questa dialettica interna nel cibo tra la molteplicità dell'offerta e la monomania, per cui tutto deve essere puro, tutto deve essere d'origine controllata. Tra l'altro l'estetica delle origini è sempre stata un'estetica di destra, non a caso l'autarchia insomma si basava su quello ed era una necessità di carattere economico in tempo di guerra, ma anche ideologico. Per cui oggi si privilegia tutto quello che ha a che fare con la tradizione, le feste comandate, l'autenticità del naturale, dimenticando che non c'è niente di più artefatto del mito della semplicità. Per cui tutto, penso non so, allo stracotto di guanciale di pianina con scalogno, carciofi glassati, cioè deve essere tutto molto specifico, molto monomaniaco. Ti andrebbe un'altra bella cucchiata dei fagioli? Buona! Che? Chiedere pure un'altra salsiccia? Certo! Cameriere? Segno! Cameriere! Anche a me salsicce con fagioli! Anche a me! Anche come me. Tu! Anche come loro! Quattro salsicce con fagioli! Anche volentieri! Beh, ho capito! Scusi, signor Remo, cosa sta mangiando? Non vede! Cara principessa, stava a mangiare pappardelle del sugo delle lepre, la fine del mondo! La fine del mondo! Le ordiniamo? Ecco, sei pronte! Ecco le pappardelle! Daniela Ranieri, scrittrice, autrice di Aristodem, discorso sui nuovi radical chic, edizioni Ponte alle Grazie. Non è un caso se la genialità di Alberto Sordi, che girò uno degli episodi di Dove vai in vacanza, che era Le vacanze intelligenti, rappresentò proprio questo ingordo e voluttuoso cadere nella quantità al ristorante in Toscana o in Umbria, comunque nella terra degli Etruschi, dove l'aveva mandato il figlio che voleva che i genitori si evolvessero. Loro due si rimpinzano di roba e i ricchi alle loro spalle, conti, baroni, quella frattaglia di aristocrazia italica, cominciarono a ordinare le stesse cose che ordinavano loro, dicevano fagioli con le cotiche, oh, che buono, ma cos'è? Non sapevano di cosa si trattasse. E quella roba lì ancora esiste. Non mi hanno capito! Per favore, non equivoco della cucina giapponese! Io non volevo! Verso il 2000-2001 abbiamo cominciato a scoprire il giapponese. Prima era tutto un cinese, ci piaceva perché la Cina era una tigre economica. Ci sentivamo tutti più internazionali quando andavamo dal cinese. Poi abbiamo scoperto, cioè non so chi, a un certo punto se ne uscì uno e disse: guardate che nel cinese c'è il glutammato monosodico. E siccome gli italiani avevano cominciato a leggere le riviste di salute, avevano capito che era una cosa cancerogena, hanno cominciato a non andare più dal cinese, anche se era economico e chic. È diventato un posto da poveri, scemi, proletari e popolari, e ci siamo spostati tutti al giapponese. Però non ci siamo accorti che nel frattempo i cinesi avevano capito questa mutazione e si sono convertiti in giapponesi. C'erano gli stessi cinesi che però ci servivano il sushi. Visto che gli aristodem sono più furbi degli altri, hanno capito l'inghippo e hanno cominciato anche loro a disertare il sushi. Io ho partecipato a una festa che riporto in aristodem, in cui mi si presentò un piatto con la raccomandazione che era sushi, sì, ma sushi cotto. Io lo guardai e lui mi disse: alla vaccinara. Menù del nuovo Radical Chic. Capriolo arrosto al fieno e al sugo di cacao, stracotto di guanciale di chianina con scalogno e carciofi glassati, bresaola sì, ma appoggiata su polpette di lesso di manzo al pesto di pinoli all'oro, pomodori appassiti, sbollentati, spellati, aperti a cuori di bue crudissimi, fettuccine al tè verde, taglionini burro e salvia dell'orto, gnocchetti nero di seppia e liquirizia, a chi piace un po' di cacio, risotto alle fragoline di nemi, al melo grano, bucce di arancia, di limone, di patata, di rapa, grattugiate, gelato al sedano, al basilico, sorbetto dei lamponi e zenzero con risposta di rabarbaro, cavoli in zuppa in foglia, frattaglie, parti, spalla, lingua, fegatini, rognoni al caffè e trippe, burro, salato dolce, sablé, arborinato, anche di noccioline, ma me lo metti col tartufo allora, col caviale davvero me lo metti, noi il caviale lo mangiamo solo col burro d'arachidi, tofu fatto in casa, agnello bianco con il chutney di mango, crème brûlée, meglio crema bruciata, alla rosa e cardamomo, al sale dell'Himalaya, rosa nero speziato uguale il pepe, rosa nero dell'Himalaya speziato il sale, sale al pepe, pepe al peperoncino, al curry, alla rosa, alla cardamomo, pepe al pepe, mezze, falafel, tajunt, couscous, coda e pasta con l'arzilla, la pagliata, fiori di violetta alla giudia, insomma, come vedete, tutto, purché sia povero, purché sia semplice, e per dessert pane e marmellata. Anche le occasioni pubbliche con il buffet sono dei momenti socialmente importanti in cui il cibo diventa l'elemento essenziale. Signori, è aperto il buffet! Bon magnà! Bon magnà! Bon magnà! Piano piano, non fate riconoscere! Bon magnà! Umberto Pizzi, fotografo, autore di Cafonal, gli italioni nel mirino di Dagospia, edizioni Mondadori. Io mi ricordo che quando subito ho iniziato il mio lavoro, la cosa che mi ha scioccato di più è stato quando andavo a fare delle feste, anche con personaggi grandi di interesse istituzionale, che si buttavano sul buffet come se fosse la prima volta che mangiavano. Ed era uno spettacolo un po' vergognoso, sembrava che questi non avessero mangiato mai. E così mi sono deciso da allora di immortalarli. Oh, finalmente le famose mozzarelle di bufala offerte dalla marchesa Adantisa Musumeci Baldozzi di Caserta. Temo però che non basteranno per tutte. C'è tutta l'estetica del Cafonal che ha inventato, o meglio che ha intercettato Dagospia, in cui il buffet gratis è come la livella di Totò, cioè tutti allargando i gomiti mangiano tutto purché sia a sbafo e a scapito del proprio vicino di posto. E lì veramente non c'è distinzione tra ricchi e poveri, anzi quanto più si è ricchi tanto più si deve mangiare. Ragazzi, c'è la polenta! Su, tutti all'attacco! Avanti, pronti per la polenta! E c'è la porchetta? Il porchettone? No, grazie, sono a dieta. Ah, non mangia, come, se non, non mangio la polenta? Ma è obbligatoria, avanti, su! Ma certo che ci sono le salsicce! Io fotografo la gente che mangia perché mangiare in quella maniera denuncia anche il carattere della persona. Se uno mangia violento, è un violento, non cambia niente, perché il mangiare, la bocca, è l'espressione del corpo, mentre gli occhi sono l'espressione dell'anima. La bocca come sono? Eccola qui, eccola qua, la mozzarella. Ma guarda, ce n'è un'altra, sicuro che ce n'è una, ce n'è una. Sono soprattutto la gente comune e il politico che non sa trattenersi. E anche soprattutto i ricchi è spaventoso. Normalmente gli attori sanno recitare anche quando mangiano. I piatti sono tutti esagerati, perché vai a un buffet, delle volte hanno fatto pure la trippa, capito? Cioè un piatto con la trippa, che è piuttosto popolare, però tutte queste cose che richiamano un po' il cibo povero, il cibo contadino. Fettuccine con regaglie di pollo, bucatini alla carbonara, e poi ci sono le specialità della casa, cravella, ripa, le umane, a me la porzione è scarsa perché stanotte sono stata tanto disturbata con lo stomaco. Oggi ci si è messa mamma in cucina, ha fatto lei la pagliata, diretta a me, prenda la pagliata. Addirittura quando si va sul raffinato fanno il brodetto di tartarughe, capito? E io me li studio un po', ci sono dei personaggi proprio che hanno un modo di mangiare, io so esattamente, poi dopo averli frequentati, so esattamente quando fanno una certa azione, non so quando si mangiano una cosa che si sbrodolano. Lenticchie, queste me le pappo come se porto a bermi lenticchie ora. Oppure che gli vedi quasi l'ugola, ma tanto aprono la bocca per immettere il cibo, capito? Se ci appare differente è perché si ha capacità di controllarsi, ma siccome nelle feste la gente non si controlla, si lascia andare, perché poi sai come si dice, che se il cibo è pessimo e il vino è buono, allora c'è del zuccheri che navigano nel sangue, e allora la gente è un po' allegrotta e si comporta a brille sciolte. Ecco, per me è una cosa così, è come respirare, fotografarli che mangiano. E infatti negli ultimi tempi cercano di non farmi entrare nei posti, specialmente se mangiano. Lei conosce le regole, Fantozzi. Lei sa come deve comportarsi in società, non è vero? Quello che deve fare, quello che non deve fare. Vedremo. Come vedremo? Che prima avevo la mano un po' sguscitata. Scusi. I bicchieri. 5 calici sfasati sulla sinistra. Altri 5 sfasati sulla destra. Da quale parte bere? Ma non siete impiegati? Ho la salivazione leggerissimamente azzerata. E allora beva. La parola con cui si traduce l'antico termine di magnata a sbafo è catering. Il catering naturalmente definisce il rango dell'evento a cui si partecipa. Io ho fatto anni di catering come misero cronista che seguiva le conferenze stampa, e mi ricordo che c'erano delle abitué che naturalmente ormai non scrivevano più per nessun giornale, ormai pensionate, parlo al femminile perché erano soprattutto delle signore, ma c'era anche qualche signore, che non se ne perdevano una. Perché? Perché quando non c'era la crisi, quando c'erano più soldi in giro, per far arrivare giornalisti, per far venire gente alla presentazione di un film miserello, di un libro squallidino, di una musica che nessuno avrebbe mai ascoltato, o di un evento che di eventuale non aveva nulla se non il fatto che capitava proprio per caso, si arricchiva il buffet, e allora la gente arrivava. C'era una velocissima presentazione, c'era una frettolosa partecipazione, poi cominciava a arrivare quel profumino di riso riscaldato, di tagliatella e involtino che improvvisamente, tolto il coperchio, riempiva la stanza di tutto il suo afore. E poi c'era la corsa al buffet. Si gettano tutti come sciacalli sopra quel risotto ai quattro formaggi, tagliatelline al ragù coi piselli, involtini con mille creme e 80 besciamel, che faceva venire l'idea che fosse una sorta di revocazione, di rivisitazione del buffet precedente, magari della mattina. C'era qualcosa di riscaldato, poi c'erano le pizzette, poi c'erano tanti stuzzichini, poi c'erano le fette di prosciutto avvoltate sul grissino, e poi c'era di tutto. La gente magnava, si scrofanava, si riempiva, chiacchierava, si vociferava che qualcuno avesse anche sacchetti di nylon nelle tasche per riempirli. Erano i peggiori morti di fame, che ormai avevano come unica attenzione quella di andare alle conferenze stampa. Poi venne la crisi, e anche buffet ci fu l'aperitivo rinforzato, che era qualcosa di molto suscettibile a seconda del potere d'acquisto di chi organizzava il buffet, chi organizzava la conferenza stampa. Poteva essere anche semplicemente uno spumantino di quarto ordine stappato lì per lì con delle noccioline ammuffite. Per le ricette infami oggi proponiamo pennette tricolore per buffet. Per preparare questo simpatico piatto, perfetto per fare bella figura ai buffet con il richiamo alla bandiera e alla patria, non occorrono grandi competenze gastronomiche. È importante puntare sull'estetica e sui colori, che attireranno gli avidi commensali come le api ai fiori. Nessuno baderà al sapore o alla qualità del cibo, tutto verrà ingurgitato distrattamente. Preparazione. Prendete una grande teglia, cospargetela con olio di scolatura di scatoletta di tonno, fate soffriggere insieme all'aglio riciclato. Aggiungete 10 pomodori trovati per terra al mercato per ottenere il rosso, abbondante prezzemolo per il verde, poi cospargete il tutto di panna per il bianco. Aggiungete grandi quantità di peperoncino per coprire i sapori e far bere gli ospiti. Prendete delle pennette integrali, garanzia di qualità. Lessatele in abbondante acqua salata e scolatele. Servitele trionfalmente con accompagnamento dell'inno nazionale.